Europa 24. Buon pomeriggio da Alessio Maurizi, ben ritrovati in apertura all'Ucraina. Niente guerra in Ucraina per non violare i diritti dell'uomo. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha infatti intimato alla Russia di non intraprendere alcuna azione che possa mettere in pericolo la vita o la salute dei civili presenti nel paese. La decisione è arrivata ieri sera, accettando il ricorso d'urgenza presentato da Kiev, visto che sia l'Ucraina che la Russia aderiscono alla convenzione che fa capo al Tribunale di Strasburgo. Applauso per il pacchetto di aiuti finanziari europei da 11 miliardi e raccomandazione ai 28 per rendere l'Unione Europea meno dipendente dal petrolio e dal gas russi, chiedendo anche di prepararsi però alle ritorsioni da parte della Russia. L'ennesima pressione europea per scongiurare l'ipotesi di una guerra in Crimea era arrivata anche dal Parlamento europeo, che ha dato pieno sostegno alle sanzioni contro la Russia, che non, se non si ritira immediatamente dalla Crimea, e quindi sì al congelamento dei beni, il divieto di viaggio, l'embargo alle armi e alle tecnologie dual use, ma anche stretta applicazione delle norme antiriciclaggio e infine giro di vite sulle società energetiche russe. E ora l'economia europea. Ha pubblicato i dati Eurostat sull'occupazione del quarto trimestre 2013, per l'Italia però non va molto bene, sentiamo. Cresce lievemente l'occupazione nell'Eurozona. Nell'ultimo trimestre del 2013, secondo Eurostat, si registra una lieve ripresa dello 0,1% rispetto al trimestre precedente. In Italia è stata registrata una flessione dello 0,5%. Se però si fa un confronto con lo stesso periodo del 2012, l'occupazione è diminuita dello 0,5% nell'Eurozona e del 2% in Italia. Un triste primato che il nostro paese condivide con l'Olanda. Vanno peggio di noi solo l'Estonia, meno 1,3%, la Lettonia, meno 1,1% e Cipro, meno 0,6%. A livello settoriale, nel quarto trimestre del 2013 il comparto che ha segnato la migliore performance rispetto al trimestre precedente è stato quello dell'informatica e delle comunicazioni, più 0,5%. La peggiore è stata invece registrata nelle attività immobiliari, meno 0,9%. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto è a Napoli anche oggi il vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, 2 giorni con l'obiettivo di rilanciare la crescita con i rappresentanti di 600 aziende europee e anche extra europee per studiare investimenti comuni. L'Europa, dice Radio 24, deve essere quella non solo del rigore ma anche della solidarietà. 600 imprese italiane, europee ed extra europee. L'obiettivo di questi imprenditori è capire se, come e dove fare investimenti. Obiettivo: puntare sulla crescita di questa parte di Europa, perché la crescita di questa parte d'Europa è determinante per la crescita di tutta l'Europa meridionale. Siamo qui con 600 imprese che vogliono investire qui e ne organizzeremo un'altra fra qualche giorno a Palermo e a Catania, altri imprenditori. Siccome l'Europa non può essere solo quella dei sacrifici, ma anche quella della solidarietà, stiamo accompagnando imprenditori europei nelle regioni d'Europa dove c'è una forte disoccupazione giovanile. Siamo stati in Portogallo, siamo stati in Grecia, saremo non soltanto in Italia, ma anche in Estremadura, in Andalusia, in Spagna. La tragedia dei migranti sullo sfondo del vertice dei capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea previsto la prossima settimana a Bruxelles. Amnesty International ha annunciato che il 20 marzo creerà una spiaggia davanti alla sede del Consiglio Europeo per ricordare il naufragio avvenuto nell'ottobre del 2013 al largo delle coste di Lampedusa. L'obiettivo è mettere pressione sui leader europei nel momento in cui l'Unione Europea sta definendo la nuova strategia sull'immigrazione, che sarà concordata al vertice europeo di giugno. Nasce in Europa il Corpo dei Volontari Europei. Che cosa farà e come nasce questa idea? Cristina Carpinelli lo ha chiesto a Daniel Giorev del Commissariato Europeo per la Cooperazione Internazionale degli Aiuti Umanitari. Sentiamo. EU Aid Volunteers is an idea which was originally laid down in the Lisbon Treaty a couple of years ago. L'idea è nata un paio di anni fa ed è quella di creare un corpo di volontari che aiutino e affianchino le forze dell'ordine, partecipino a progetti, sostengano progetti collegati allo sviluppo e all'assistenza umanitaria. L'opportunità è per tutti coloro che vogliono mettersi a disposizione degli altri. È un modo per entrare anche più nel vivo dell'Europa sostenendo una causa umanitaria. È tutto per Europa 24, vi lascio a tutti convocati. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.